fermato più e più volte già a maggio dello scorso anno, poi appunto adesso c'è stato un parere sempre a dicembre dell'autorità vigilante per i contratti pubblici che ha posto ulteriori pareri negativi sull'articolazione di questo bando. Fatto sta che comunque alcuni genitori hanno preso l'iniziativa e a dicembre si sono autoconvocati in un'assemblea pubblica per contrapporsi in qualche forma a questo nuovo bando che viene lanciato, che stiamo parlando di un bando europeo, ci sono in ballo circa 440 e passa milioni di euro. E riguarda una popolazione scolastica di circa 150.000 bambini, quindi i conti, insomma, i soldi in ballo sono molti. E quindi i genitori però si sono letti i capitolati, il bando e tutti gli allegati, una faccenda corposa, e hanno rilevato molti peggioramenti qualitativi e anche di costi aggiuntivi che vanno appunto a carico delle famiglie, e hanno discusso appunto le modalità per opporsi a questo bando. Io volevo fare un breve riassunto, insomma ci sono appunto, c'è uno scadimento proprio della qualità, quindi vengono sostituiti, anche se era già stato fatto, alimenti che ricordiamo, stiamo parlando poi soprattutto di una popolazione scuola primaria, scuole elementari, scuole medie, insomma, quindi bambini fondamentalmente che mangiano a scuola tutti i giorni e che la cui alimentazione poi appunto delle scuole a scuola è 5 giorni a settimana, quindi è consistente la quota di che il tempo che passano a scuola e anche il cibo che prendono a scuola. Quindi dicevamo, c'è stato uno scadimento della qualità, quindi il bando sostituisce, cosa che aveva già fatto in corso d'opera, alcuni alimenti biologici essenziali, proprio tipo olio d'oliva, pomodori, pasta. E non c'è più il chilometro zero, ma viene ampliata la fascia di rifornimento che arriva fino a 300 chilometri e quindi va da qui a Livorno, da qui a Torre Annunziata, insomma possiamo estendere il raggio come ci vogliamo. E inoltre vengono aggiunti dei costi burocratici che vanno a incidere anche sul costo pasto, con delle burocrazie assurde, tipo documentare tutta la filiera dei mezzi di trasporto che devono produrre fotocopie di tutto il percorso da quando parte praticamente il rifornimento a quando arriva a scuola. E poi ulteriori informazioni magari le potete leggere anche sul nostro sito, perché abbiamo messo alcuni documenti. E comunque queste, ci sono state varie assemblee, la prima molto partecipata, poi mano a mano la partecipazione è un po' scemata, e comunque a tutt'oggi c'è un osservatorio alimentare dei bambini che si è costituito, che procede in maniera a mio parere abbastanza confusa, perché ancora non ho capito che cosa si farà. Hanno fatto una petizione, una raccolta firme, ma più che altro a parer loro per informare genitori, insegnanti di quello che stava accadendo, quindi ha un valore simbolico, non è proprio un qualcosa che viene fatto per poi essere portato non si sa dove. E però tra le proposte interessanti che erano uscite e che sono a tutt'oggi molto dibattute, anche se non vi è traccia poi nei verbali di queste assemblee e anche nei volantini che vengono poi diffusi, è una lotta che è già in piedi, una che è di autoriduzione delle quote mensa che vengono pagate dai genitori, e abbiamo qui un genitore che appunto ci racconterà della scuola dell'istituto comprensivo di Laurentino, che ci informa un pochino meglio, perché si è generata molta confusione su che cosa significhi autoriduzione e perché si crea confusione anche, perché e qui entriamo in un ambito che noi abbiamo già affrontato per quello che riguardava anche le manifestazioni e le occupazioni delle scuole, di legalità. Ciao a tutte e tutti, io sono Matteo, un genitore dell'istituto comprensivo Laurentina 710 che grava nel territorio del famoso Laurentino 38 di Roma, territorio conosciuto, famoso alle cronache per le numerose lotte appunto che si mettono in piedi, non solo per quelle cronache che spesso sui media dominanti riusciamo a cogliere i fatti più gravi. Vabbè, ritornando sulla questione della mensa, io volevo ricostruire insieme a voi quello che è stato il percorso della Giunta Capitolina dal momento del suo insediamento, perché bisogna ricostruire un attimo quali sono stati i passi precedenti a questo nuovo bando, che è la ciliegina sulla torta di una politica a danno appunto dei bambini e a danno delle tasche delle famiglie. Quindi mentre da una parte assistiamo agli appelli dell'assessore, io lo chiamo sempre il tragicomico francescano, che parlano di famiglia e di politiche della famiglia e di sostegno alla famiglia, si inventano vari quozienti dicendo che aiutano le famiglie, poi però sulla questione mensa negli ultimi tre anni abbiamo assistito a un vero attacco alle tasche delle famiglie. Ed esattamente la nostra giunta si riunisce il 30-31 luglio del 2010 e decide di revisionare totalmente le fasce di riferimento ISEE, che è un indice con cui si calcolano in base ai redditi familiari l'equivalente, e rispetto a una precedente tariffazione che vedeva delle fasce più o meno ampie di reddito, loro vanno a integrare e ottenere ben 16 fasce di reddito ISEE. All'interno di questa, giustificandola che così si andava a un dato più corretto e più esatto, ma in realtà certo, dietro 16 dettagliatissime, insomma. Sì, perché molto dettagliate, però dietro di questo si nascondeva sostanzialmente, mentre prima avevamo due fasce di pagamento, ossia si pagava o 30,99 euro a carico delle famiglie per il sistema di refezione scolastica fino a un ISEE di 12.900 euro, e poi si pagava 41 euro fino a un ISEE 140.000, quindi sostanzialmente erano due grosse fasce. Loro scorporano in queste 16 fasce e si passa a varie tariffe, con un aumento sostanziale che va da 25% di aumento per un ISEE 12.000 euro, calcoliamo un ISEE 12.000 euro una famiglia con due figli e un solo lavoratore, quindi prima pagava 30 euro e adesso va a pagare 39 euro, quindi ha un 25% di aumento. Sostanzialmente suddicendo fino a 30.000, 35.000, 40.000 euro di ISEE vuol dire due lavoratori in casa, due lavoratori con due bambini, hanno anche aumenti del 70%. Quindi dietro la politica della famiglia della nostra giunta in realtà si nasconde un'operazione dove porta la copertura economica del sistema di refezione scolastica, mentre prima era 60% in media, dato medio, a carico del comune e 40% a carico delle famiglie, il gioco si inverte e in dato medio si passa da un 60% a carico delle famiglie e un 40% a carico del comune. In alcuni casi, come l'esempio dei 40.000 euro di ISEE, si passa anche a un 70-30 e anche a un 80 a carico delle famiglie e 20 dal comune. Quindi sostanzialmente il comune di Roma oltre a regalarci un'addizionale IRPEF per noi lavoratori più alta d'Italia, nell'erogare i servizi alle famiglie, perché questo di un servizio alle famiglie si tratta, decide di farcelo pagare. No, questo non basta al Comune di Roma, perché successivamente, come in tutti i contratti pubblici, i prezzi hanno un adeguamento Istat, cioè si adeguano di una percentuale ogni due anni per stare appunto all'aumento dei prezzi delle materie prime e via dicendo. Infatti succede che il Comune di Roma successivamente, con una circolare del 1° dicembre del 2010, dice alle scuole, in particolare alle scuole che hanno l'autogestione. Qui apro una parentesi, perché questo termine autogestione spesso crea confusione. Uno può pensare, noi possiamo pensare che avere una mensa autogestita sia una cosa più sicura dal punto di vista della sicurezza alimentare, della garanzia della qualità, quindi una partecipazione diretta e autonoma della scuola nella gestione di questo servizio. In realtà nel Comune di Roma avere una mensa autogestita vuol dire offrire al Comune, attraverso il contributo dei lavoratori ATA che dovrebbero sono a scuola per fare altro, di gestire un servizio cassa, quindi incassare dalle famiglie questi soldi e pagare poi, incassano sia dalle famiglie che dal comune, e pagare poi le ditte appaltatrici. Ma nulla può decidere una scuola su la qualità, la tipologia delle merci, delle derrate alimentari. Quindi l'autogestione sta solo nel fatto che la scuola singola gestisce il pagamento della ditta che ha vinto l'appalto. Assolutamente sì, anche perché l'appalto e le modalità di erogazione del servizio sono regolate da un capitolato d'appalto che è redatto dal comune, e pertanto non hanno nessuna autonomia di gestione da questo punto di vista. Nel dicembre 2010 il Comune di Roma, per assorbire l'adeguamento Istat che era pari a 0,8 centesimi per pasto giornaliero, decide di comunica alle scuole che devono pagarlo loro, non il Comune. Le scuole di Roma propone alle scuole di Roma in alternativa di fare un taglio alla qualità. Nel senso, se volete tenere lo stesso prezzo, dobbiamo fare un taglio alla qualità. Ed esattamente c'è la sostituzione di carne di coniglio con carne di suino, il riso bio con riso convenzionale, il burro, il filet, la bresaola con spalla cotta, il parmigiano bio con parmigiano convenzionale e via dicendo. Chiaramente nelle mense, nei consigli d'istituto che hanno mensa autogestita, si apre un dibattito. Molti genitori portano, appunto, sollevano la questione dicendo: noi paghiamo anche una quota di pasti che però la scuola non paga alla ditta. Mi spiego meglio. Cioè, il sistema di tariffe della refezione scolastica del Comune di Roma ha una grossa anomalia. Nel senso, chiedono alle famiglie di contribuire con una tariffa mensile basata su un'erogazione di 20 pasti, e questo equivale a 9 mensilità nella materna e a 8 mensilità nella primaria. Però la scuola o anche il comune nella gestione diretta paga alle ditte appaltatrici solo i pasti erogati, ossia ogni mattina dentro scuola gira un foglio presenze, e i nostri figli, se mancano da scuola, non viene erogato il loro pasto, e di conseguenza l'ente, quando va a pagare la ditta, non paga quei pasti non erogati. Questo vale anche per le vacanze, vale anche per i giorni in cui la scuola è chiusa per le lezioni. Quindi sostanzialmente in media un bambino, anche la neve, il concorso, insomma, le scuole possono essere chiuse per tanti motivi. Appunto, sì, le nevicate romane poi sì, ne fanno tante. Sostanzialmente quindi in media un bambino o una bambina che va a scuola, i suoi genitori pagano dai 30 ai 40 pasti in più l'anno. che se voi calcolate che una rata media della mensa a Roma va dai 40 ai 50 euro, moltiplicate, questa è una mensilità, se calcolate che una mensilità è fatta di 20 pasti, 40 pasti arrivano quasi a due mensilità, quindi ogni bambino lascia nelle casse del comune di Roma 80 euro. Come si diceva prima, la popolazione scolastica che pranza nelle scuole romane è di 150.000 bambini e bambine circa, quindi fate una semplice moltiplicazione e potete capire l'entità di soldi reali che vengono prelevati dalle tasche delle famiglie e vengono incassate o dal comune nel caso della gestione diretta o dalle scuole nel caso della gestione in autogestione, scusate il giro di parole, nella cassa autogestita. Noi nella nostra scuola Laurentino 38 ci siamo chiesti: ma se noi diamo 80 euro di più, perché non possiamo assorbire gli 8 centesimi di aumento e garantire la qualità dei pasti dei nostri figli? Calcolate che 8 centesimi al giorno su 20 giorni che vanno a scuola di pasti erogati sono 12,60 euro al mese, conti fatti alla mano. Ciò vuol dire che su 8 mensilità sono 80 euro, quindi ci stiamo. Scusatemi, 8 centesimi sono 1,60 euro al mese, su 8 mensilità sono 12,60 euro, gli diamo molti più soldi. Le scuole di Roma hanno avuto una reazione particolare, molto strana. Qui devo aprire una piccola parentesi anche rispetto alle insegnanti e lavoratrici della scuola, perché io partecipo in un consiglio di istituto e mi sarei aspettato un atteggiamento diverso rispetto a una relazione tra le componenti della scuola, perché spesso noi famiglie giustamente veniamo chiamati a dare solidarietà nei momenti di lotta della difesa della scuola pubblica, però sarebbe anche giusto che i lavoratori della scuola su questioni importanti come queste prendessero una posizione diversa da quella del dirigente di turno che detta la linea. Nella nostra scuola purtroppo le insegnanti hanno votato a favore del taglio alla qualità e questo ha permesso di avere la maggioranza in consiglio e di passare con un parere contrario a quello delle famiglie. Qui ho aperto una parentesi un po' così. Apro una parentesi nella parentesi per chi ci ascolta e magari non ha così dimestichezza con la scuola. Il consiglio d'istituto è, diciamo, l'organo politico-economico della scuola e ci partecipano tutte le componenti, cioè ci sono rappresentanti di insegnanti, ATA, genitori e per le superiori anche studenti, che vengano eletti ogni 3 anni. Dico questo perché, insomma, si capisca che è un organo dove ci sono rappresentanze, più o meno una 15ina di persone, poi c'è la dirigente o il dirigente, eccetera, e che prende appunto questo tipo di decisioni. Anche tutto quello che ha a che fare con i soldi, insomma, passa, se non è di nomina, se non è strettamente di pertinenza del dirigente, è di pertinenza del consiglio d'istituto. E che il consiglio d'istituto comunque è formato per la maggior parte da docenti, cioè la proporzione per esempio può essere 8 docenti, 2 genitori, 2 o 3 alunni, 2 ATA, dico, quindi è chiaro che sia, no, credo decisione, che sia varia, 8, varia 4, 4 e gli ATA sono meno di tutti. Sì, ecco, siccome non mi interesso del consiglio di istituto, no, almeno alle superiori dove ci sono anche gli studenti sono 4 genitori e 4 studenti per 8 insegnanti. E quindi insegnanti. È evidente che se i docenti e le docenti sono d'accordo su una cosa, le dinamiche poi le conosciamo, insomma, non, i genitori sono messi in minoranza. Sì, chiusa la parentesi, noi come genitori ci siamo chiesti: ma perché se noi diamo, innanzitutto perché noi diamo questo contributo alla scuola? E anche qui ci siamo posti l'interrogativo: ma le scuole con casse in autogestione, attraverso la riscossione della tariffa della mensa scolastica alle famiglie, acquisiscono un contributo occulto? C'è sorta questa domanda, perché quando noi abbiamo chiesto: ma questi soldi dove vanno a finire? Ci hanno detto: ah, ma ci servono per finanziare l'offerta formativa. Poi però, come genitori, ci viene di volta in volta chiesto di contribuire alle varie uscite didattiche, alle varie attività che sono previste nel famoso POF. Quindi in realtà su una popolazione scolastica del mio istituto comprensivo, che sono 600 bambini, immaginate 80 euro per 600 bambini, sono bei soldi per finanziarsi un'offerta formativa anche consistente. In realtà questi soldi vanno a finire nel fondo d'istituto e ci vengono, a volte sono vincolati, a volte no, e vengono utilizzati. Per esempio nella nostra scuola in quell'anno scoprimmo che, siccome non era stata nominata la DSGA ed era già a novembre, erano avanzati, si fece un corso di formazione per personale ATA sulla gestione della cassa della mensa e fu finanziata col contributo dei genitori. Però per entrare sempre più in merito invece alla questione, scusate, poi magari su questo fatto dei contributi volontari, siccome c'è molta discussione anche tra i genitori, i circolari del MIUR e quant'altro, magari ne riparliamo, insomma. Sì. In realtà ne abbiamo parlato e riparlato prima delle iscrizioni, perché appunto i genitori che ci ascoltano siano consapevoli che non c'è nessun obbligo, perché appunto siamo volontari. E poi però aggiungiamo magari qualcosa dopo. Sì. Fatto sta, ritornando sull'attività della Giunta Capitolina sulla questione mensa, un'altra sorpresa, addirittura in una di queste circolari inseriscono un richiamo alle mense autogestite, dove dicono che parte di questi contributi devono essere anche utilizzati per la manutenzione ordinaria degli edifici che sono di proprietà, nel caso della materna e della primaria, del Comune di Roma, e pertanto spettano all'ente proprietario. Quindi dicono: pagateci anche quello che a me mi spetta. Ma l'altra sorpresa appunto giunge il 7 marzo 2012, in cui c'è il nuovo adeguamento dei prezzi Istat sulla mensa scolastica. Il Comune di Roma non discute nemmeno se fare un taglio alla qualità o meno, decide che nelle casse autogestite venga coperto assolutamente con il disavanzo mensa, cioè questo nome tecnico, questo contributo che i genitori lasciano. Pertanto, a conclusione, questo contributo, che in modo poco trasparente viene prelevato dalle tasche dei genitori, non è servito assolutamente negli ultimi 3 anni a garantire una qualità del vitto del cibo che viene consumato a scuola, e di pari passo ci risulta che non è servito neanche a autotassarci per offrire ai nostri figli un'offerta formativa. Pertanto si arriva adesso a quello che è il nuovo bando del Comune di Roma, dove c'è un attacco fortissimo alla qualità, dove c'è un grosso taglio sulla questione dei cibi biologici, che vengono preferiti rispetto a un criterio che è il chilometro zero. Però il nostro caro assessore De Palo, con i suoi sandali, fa tanti chilometri, quindi il chilometro zero lo mette a 300 chilometri dal Campidoglio. Ciò vuol dire che è un formaggio che può essere prodotto tra l'altro dalle aziende agricole comunali come Castel di Guido, che sarebbe, dobbiamo anche dire agli ascoltatori che il Comune di Roma riceve i fondi per le produzioni casearie dalla Comunità Europea, perché è produttore di formaggi. Però nel nuovo bando non ha messo un vincolo che le produzioni casearie vengano da queste aziende, che tra l'altro sono in dismissione, stanno mandando a casa decine, appunto, in agitazione, perché li vogliono licenziare praticamente, appunto. Però un formaggio, prendo in esempio il formaggio, per il chilometro zero, secondo l'assessore De Palo, può arrivare dalla Costa Teramana, ed è comunque a chilometro zero, perché 300 chilometri, parliamo la distanza dall'Adriatico a Roma. Detto questo, noi pensiamo, cioè io penso, e come me tanti altri genitori che comunque hanno da 3 anni hanno attivato questa battaglia dell'autoriduzione, di avere il diritto a non pagare i pasti erogati, che questa sia una delle battaglie centrali da portare come modifica nel nuovo bando. Cioè chiediamo di rivedere il sistema di tariffazione, che tra l'altro è un'anomalia da quello che mi risulta, studiando un po' in giro, del tutto romana, perché negli altri comuni si pagano solo i pasti erogati. E questa è trasparenza nella cosa pubblica. Noi genitori chiediamo che con i soldi della mensa paghiamo la mensa, e se poi la scuola ha bisogno degli altri soldi ce li chiede, ma che siamo noi poi a decidere se darli o meno attraverso un percorso partecipato. Torniamo in diretta, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, stiamo parlando di mense del Comune di Roma, di mense essenzialmente per le primarie e per le materne. Siamo qui con Matteo, che è un genitore della primaria del Orrentino 38, a cui rendo subito la parola. Sì, ritornando sul nuovo bando, l'altra sorpresa che riserva il Comune di Roma per le casse autogestite è quella di sostenere i costi della pubblicazione del bando. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che all'interno del bando è previsto che l'ente appaltatore, nel caso della mensa autogestita, l'istituto stesso, una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, una pubblicazione su 3 quotidiani nazionali, e questo porta un costo molto elevato di circa 3-4 mila euro che dovranno sostenere le famiglie. Quindi è l'ennesimo scherzo che la Giunta Capitolina ci riserva. Poi, ritornando invece al dibattito che accennava prima Paola dell'osservatorio, sfrutto l'occasione, perché magari molti genitori che partecipano stanno ascoltando la radio in questo momento, perché molti hanno manifestato un po' di confusione su come applicare l'autoriduzione. L'applicazione dell'autoriduzione, noi come genitori a Laurentino l'applichiamo ormai da 3 anni, è una cosa molto semplice. Cerchiamo di compensare i pasti non erogati e quindi ci riduciamo di una mensilità. Non paghiamo una mensilità, che per comodità è l'ultima, ma questo non fa differenza, e questo non danneggia assolutamente le casse della scuola, perché la scuola, appunto, ripeto, paga solo i pasti erogati. Nel caso invece di gestione diretta non danneggia il comune, anzi è un'importante scelta per non farsi saccheggiare dalle proprie tasche, dalle tasche delle famiglie di questa città, circa 9 milioni di euro che il comune si intasca da questa operazione. rispetto, e qui concludo, rispetto appunto alle casse autogestite, è anche giusto ribadire che pochi giorni fa il MIUR, proprio attraverso una circolare, ha detto che i contributi volontari non possono essere acquisiti attraverso comportamenti poco trasparenti. Quindi le famiglie non possono tassarsi attraverso la mensa per sostenere l'offerta formativa della scuola, altrimenti ricadiamo assolutamente nel contributo occulto. Pertanto io vi invito a non pagare la minestra di Alemanno. Fra l'altro, su questa storia del contributo, di cui da questi microfoni abbiamo parlato molto a lungo, insomma, prima del 28 febbraio, che era la scadenza per le iscrizioni a scuola, insomma, per l'anno 2013-2014, cercando di sottolineare che il contributo, a parte quelle tasse di iscrizione che sono una quindicina di euro, il resto è un contributo che appunto viene definito volontario e che deve servire per l'innovazione. Un'erogazione liberale che ha è anche stabilito a livello ministeriale a cosa può essere devoluto, cioè all'innovazione e all'accrescimento didattico, insomma all'arricchimento didattico e all'edilizia scolastica, e tutto il resto è illecito. Molte scuole, abbiamo parlato molto a lungo negli ultimi anni, hanno cercato di, come dire, far scomparire questo aggettivo volontario, perché sostanzialmente è molto difficile tenere aperte le scuole senza il contributo cosiddetto volontario delle famiglie. E su questo, insomma, volevo spendere due parole su un articolo che è uscito su Left della scorsa settimana, La scuola che non c'è, la rubrica, e che è tenuta da Giuseppe Benedetti, il quale dice, risponde alla circolare ministeriale a cui si faceva riferimento poc'anzi, dicendo poi c'è la questione dei contributi volontari, per i quali il ministro Profumo, come il predecessore, perché la stessa cosa l'aveva fatta anche la Gelmini, bacchetta i dirigenti scolastici che approfitterebbero della buona fede delle famiglie per far cassa, come se questi aiuti non rimediassero all'insufficienza di risorse erogate dallo Stato alle scuole, eccetera eccetera. Ora, quello che volevamo dire noi è che nessuno mette in dubbio che questi soldi vengano chiesti alle famiglie per tenere aperte le scuole, ma il fatto è che in Italia c'è una scuola pubblica e non è stato votato da nessuno che la debbano pagare i genitori, le famiglie, gli studenti e le studentesse, che già comunque pagano la scuola attraverso il prelievo fiscale generale. Non è che questi soldi arrivano dal cielo, nel senso, ci sono le tasse con cui si paga la sanità, la scuola, eccetera eccetera. E quindi, per rispondere a Benedetti e anche a tanti colleghi colleghe e anche genitori che dicono la stessa cosa, questa cosa è illegittima. Se la scuola non si riesce più a tenere aperta senza i contributi volontari, chiudiamola e vediamo se per una volta qualcuno prende in mano questa situazione. Io non credo che con un dito fermeremo una valanga, questo ovviamente è il mio punto di vista. Però quello che invece non è il mio punto di vista è che non si può far passare per obbligatorio un contributo volontario. E poi qui c'è il discorso, che anche questo abbiamo a volte fatto da questa trasmissione, che le scuole ormai sono in una competizione, parliamo delle scuole statali, in una competizione feroce fra di loro. Ci sono stati i cosiddetti dimensionamenti, quindi gli accorpamenti, le fusioni tra elementari e medie con gli istituti comprensivi, con perdita di un sacco di posti di lavoro, scuole che sono scomparse, e quindi c'è una competizione che si gioca anche su, diciamo, una riverniciatura, perché certe volte è solo questa, della scuola e di come si propone alla possibile utenza. E quindi qui il piano dell'offerta formativa, che io ho detto più volte che spesso poi è soltanto fumo e poco arrosto, se andiamo a vedere poi i progetti uno per uno, ma comunque serve proprio ad attrarre utenze, e rispetto a questo, insomma, è evidente che poi le scuole se la giocano ognuna come meglio crede. Il discorso è che comunque noi rivendichiamo, il ministro questo ha detto una volta tanto, poi è strumentale come vi pare, ma comunque che ci vuole trasparenza. La circolare del ministro nasce da una notizia che noi abbiamo dato in trasmissione, che ci sono circolari interne, insomma, rivolte agli alunni e ai genitori di molte scuole che tacciono su questa cosa, addirittura rifiutano iscrizioni o comunque lo minacciano. Insomma, questo è al di là del giudizio che si vuole dare sul contributo, eccetera, se serve, se non serve, e questo è assolutamente sì, illegale, questo sì. Detto questo, facciamo una pausa musicale che dedichiamo a tutti coloro e a tutte coloro bloccate dal traffico per quello che succede in San Pietro, e anche a quel nuovo signore vestito di bianco che appare lassù. Senza mantellina. Senza mantellina, ma sempre vestito di bianco e sempre a fare il papa. Con il tuo sguardo d'allevatore è la tua bocca di frasi usate, i tuoi amici di un altro mondo e le tue colpe dimenticate. Con i tuoi giochi di colombe bianche e i tuoi vestiti d'incenso ed oro, con il tuo trono su tanti morti e la ricchezza senza lavoro. Un palco luci, gente che ti ammira, uomini in ginocchio, una lunga fila, i tuoi scagnozzi anche nelle scuole, a costruire un gregge, vendendo le parole. Una speranza in fondo ti sostiene, di costruire un mondo dove il pastore è un bene, dove comandi tu su tanta gente, dove ci sia la fede, come nel passato d'inquisizione e il tuo presente da denunciare, col tuo futuro di medioevo e i tuoi pensieri nel capitale, col tuo sorriso di porcellana e i tuoi ritorni che chiami nuovi, le tue indulgenze vendute all'asta e le crociate che non ritrovi. Tu che sconfiggi spiriti cattivi, che oscuri il sole i più famosi di, i tuoi seguaci devono pregare, perché voi siete pochi, ma nati per pensare. Pensare a tutto il peso della vita, e quando il giorno la farà finita, tu siederai nel cielo tra le stelle, e a chi ha creduto tanto, sarai le caramelle. I tuoi sogni senza materia e i tuoi fratelli sotto alle scarpe, con i tuoi figli bruciati a rogo e i tuoi giorni vissuti a parte, con i tuoi versi di sette iene e i tuoi principi di colabrodo, i tuoi diritti senza ragione e la facciata tenuta a modo. Il sacramento, poi la sacra rota, la verginità, l'astinenza devota, le donazioni fatte dai penitenti e i più pietosi veri, palati sui conventi. La tua censura, la religione di Stato, dal codice Rocco verso il concordato, la frigidità, le torture più vere e le benedizioni sulle camicie. E torniamo in diretta, all'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, sono le 16:49 minuti primi, e passiamo a un altro argomento che per la verità è un argomento che trattiamo e trattiamo da tempo e tratteremo per tanto tempo, credo. Sì, diciamo, questa cosa è a margine un po' rispetto all'argomento che abbiamo trattato la volta scorsa e che abbiamo già anticipato altre volte, cioè rispetto a quella che sembra essere l'ansia della valutazione e i modi e i sistemi di valutazione che vengono praticati a scuola. Si tratta di una notizia che è sulla stampa di oggi, mi sembra, comunque su, è un articolo di Repubblica, che dà notizia di un malcostume, perché è veramente un malcostume che sembra essersi diffuso nelle scuole medie superiori rispetto a quella che a quelle che sono le possibilità di accesso per i ragazzi e per gli studenti ai singoli istituti. Cioè, che succede? Succede, ed è credo un'esperienza di tutti o comunque di molti, che in molti casi le domande di iscrizione a scuola siano, diciamo, superiori, maggiori rispetto a quella che è la capienza dell'istituto sostanzialmente, e che di conseguenza ci si trovi in qualche modo a dover scegliere chi lasciare iscrivere e chi invece indirizzare ad un altro istituto vicino o comunque a una seconda scelta. Normalmente, almeno per quella che è la mia esperienza, per quello che normalmente accade, questo veniva fatto secondo il criterio delle priorità di iscrizione, cioè chi si iscrive prima ha diritto a entrare e così via progressivamente a scalare fino agli ultimi. E sembra invece che in alcune scuole italiane, non da oggi ma già da tempo, c'è una scuola di Torino, non mi ricordo che scuola sia, l'Istituto Altiero Spinelli di Torino, in cui questa usanza vige già dal 2007. Ebbene, in queste scuole già dalla fine della terza media i ragazzi che desiderano iscriversi vengono sottoposti a test di valutazione, peraltro in ambiti, diciamo così, disciplinari completamente diversi, cioè chi valuta le capacità logiche, chi valuta la matematica, chi valuta l'italiano e così via dicendo, e le capacità di concentrazione e così via. Comunque vengono sottoposti a test d'ingresso come se dovessero iscriversi a una facoltà universitaria. Ricordiamo, ma tutti quanti lo sappiamo, che i primi due anni di scuola media superiore sono scuola dell'obbligo e conseguentemente la possibilità di iscriversi a una scuola che è scuola dell'obbligo viene sancita e stabilita attraverso dei test che sono dei test di merito sostanzialmente. Lasciamo stare il metodo del test, su cui la discussione è veramente ampia e cercheremo di renderne ragione nel corso delle puntate che ci separano da qui alla fine della trasmissione, ma al di là di questo, il problema è proprio stabilire un criterio di merito per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, almeno io credo. Anche perché che succede? Ci saranno evidentemente scuole con ragazzi bravi, con ragazzi di eccellenza, e poi ci saranno scuole di seconda scelta in cui andranno a iscriversi gli alunni problematici, gli alunni con difficoltà. E questo, francamente, nella scuola dell'obbligo è un criterio incivile. Sì, fra l'altro, insomma, tu dicevi come se fosse una facoltà universitaria, ma ricordo a noi stessi che quando il numero chiuso è stato messo nella facoltà universitaria, a noi ci sembrava già che non una follia, cioè, nel senso, e tuttora continuiamo, almeno insomma studenti e studentesse, e per quello insomma anche noi, a opporci a questa logica del numero chiuso che sostanzialmente impedisce alle persone di scegliere gli studi che possono fare in buona sostanza. Farlo in una scuola media superiore, fra l'altro questa storia del merito non è una nostra supposizione, eh? Dirigenti di queste scuole lo specificano proprio in base al merito. L'unica eccezione che trovo, io l'ho trovata veramente curiosa perché è l'unica scuola di Roma di cui si fa menzione in questo articolo, è il Convitto Nazionale, Vittorio Emanuele II, che dice, seleziona, dice, ma dice l'articolista che non so che pensa, cioè, fra le materie da studiare qui c'è il cinese e quindi le attitudini sono necessarie. Ora, perché per studiare il cinese ci sia bisogno di attitudini particolari e il francese invece no, io non lo capisco. Però state in passato scuole molto ambite, o comunque c'è ancora, credo, l'aeronautico o il nautico, che hanno una selezione. Sono scuole però non uniche in Italia, ma quasi. A Roma c'è il De Pinedo, mi pare che aeronautico, e il Marcantonio Colonna, che è nautico, dove escono proprio ufficiali di marina e piloti, eccetera, che hanno una, non un test d'ingresso, ma una sorta di curriculum che diciamo dei risultati pregressi, quindi conseguiti alle medie. Poi non so se ancora vige il criterio per cui se sei bocciato al primo anno vai via, però sono scuole un po' particolari, cioè non credo che sia ferita la libertà di iscrizione, no, alla scuola, come sono scuole musicali molto particolari, quindi in effetti con molte richieste un criterio lo devi seguire e può avere anche un senso rispetto a non far perdere tempo, insomma, a questi ragazzi. Sono scuole appunto quasi uniche in questo Ma è come senso. Il musicale, cioè, il musicale è ovvio che ha bisogno di un test d'ingresso, perché non è che si insegna la musica dall'inizio, no? Ma qui non fanno test d'ingresso, cioè questi qui, questa scuola che abbiamo citato, cioè va oltre, no? Qui non sono test d'ingresso, si vede se tu comunque hai conseguito dei risultati alle medie, sei motivato, diciamo, anche se questo poi lo sappiamo che è molto molto relativo, e ci sono carriere scolastiche disastrate con persone che poi prendono 110 e lode se vogliono iscrivere all'università e non hanno nessun problema, quindi veramente qui siamo nell'aleatorio più totale. In questo senso il discorso sui test in quanto tale è molto molto interessante, però insomma non sono test d'ingresso, sono valutazioni. Dopodiché se tu il primo anno già sei bocciato, la scuola può dire vabbè, non mi sembra che sia proprio la scuola che fa per te, e quindi, ma sono casi più unici, ripeto, non c'è un test d'ingresso. Sì, no, ma infatti il discorso a margine, e che però è veramente inquietante, è il fatto che comunque quando anche si volesse introdurre un criterio meritocratico, che è assurdo come abbiamo detto, però questi ragazzi hanno le valutazioni dell'esame di terza media che invece vengono spazzate via completamente da questo tipo di criterio a favore dei test d'ingresso, e questo è un aspetto, sembra quasi di follia nella follia, perché fare riferimento all'esito di un test, che presumo essere il solito test tipo Invalsi, di comprensione del testo, di crocette e così via, e non riporre assolutamente nessun tipo di aspettative e di fiducia in quella che è la valutazione, peraltro complessa, di insegnanti che hanno conosciuto i ragazzi per 3 anni e così via, è l'aspetto proprio che certifica in qualche modo anche l'arroganza di chi fa riferimento a questo tipo di prove. Poi i test d'ingresso, lo sapete meglio di me, si fanno nelle scuole, no, al primo anno, ma è completamente capovolto il criterio, cioè io docente voglio sapere a che livello è questa classe e quindi mi adeguerò a questo livello, non al contrario. Certo, per tarare la didattica, ma qua proprio dall'articolo traspare un altro aspetto ancora inquietante, cioè il fatto che questi test possono essere utilizzati, è una dichiarazione, anche per la formazione delle classi, e questo apre uno scenario veramente folle, perché che cosa significa? Significa che all'interno di un istituto d'eccellenza poi tu fai classi d'eccellenza, e questo voglio dire, boh. Se posso aggiungere brevissimamente, per chi magari, non lo so, magari ha un figlio, una figlia molto brava a scuola e pensa ma così mio figlio, mia figlia potrebbe avere una scuola finalmente che gli insegna per quanto è in grado di imparare eccetera eccetera, io sinceramente da insegnante credo che questo sia proprio sbagliato, cioè nel senso che se ha un valore formativo la scuola pubblica è proprio quello dell'incontro tra diversità, tra diverse classi sociali, tra persone che vengono da diverse parti del mondo, tra capacità e modalità diverse di apprendere. Non è nella classe di bravini che si diventa più bravi, è in un gruppo che si diventa più bravi. Sì, poi mi pare di tornare ai tempi quando andavo a scuola io parecchi anni fa, dove la più era, diciamo, influente il docente e più pesava la formazione della classe, per cui si avevano delle classi prime, io ho fatto un liceo e quest'anno io ho sentito queste cose, quest'anno dette dal mio professore di lettere, io quest'anno, dicendoci che eravamo una massa di capre, vabbè, che eppure mi sono fatto fare una classe con la media del 7 in su, perché ancora c'erano i voti. Insomma, questo era stato molto tornati ai voti, ci sono e di nuovo, siamo, anche sì, alle medie. Sì. Ah sì, questo mi mancava, e quindi vabbè, al di là del voto, poi tanto sai, cambia poco. Se ti dico che sei scarso, te metto 4. È uguale, cioè. Sì. Però comunque la Gelmini ha rimesso i voti anche alle elementari. Sì, sì, sì, è vero, non me lo ricordo. Cioè è vero, so che è così, ma adesso me lo ricordo pure io. E visto che mancano due minuti sostanzialmente, in sintesi. Sì, c'è una notiziola, una spigolatura che è drammatica. Allora, sapete, l'abbiamo detto l'altra volta, mi sembra che c'è un putiferio per gli stipendi dei supplenti anche annuali, perché è cambiato il modo di gestione. Adesso anche gli stipendi dei temporanei li fa il MEF, il Ministero del Tesoro, la Ragioneria Territoriale, e quest'anno ci sarà un interregno in cui praticamente le scuole dovranno fare il doppio lavoro, cioè il contratto viene trasmesso direttamente al Tesoro, così come i contratti annuali. Però qui è successo un patatrac, perché nelle more di questa nuova gestione, insomma, c'è gente che non ha ancora preso lo stipendio di dicembre, e parliamo di supplenti annuali, figuriamoci gli altri. Però siccome scade il 2 aprile la domanda per l'indennità di disoccupazione, perché poi questi docenti ovviamente d'estate non lavorano, per non parlare poi dei supplenti temporanei, c'è un intoppo, perché non funziona il passaggio del flusso delle retribuzioni, quindi dei montanti contributivi, da parte di chi eroga gli stipendi all'INPS, che risponde ai richiedenti di produrre le buste paga. Ma se le buste paga spesso non ci sono, perché non è stata data la paga, voi capite che con la scadenza così ravvicinata si rischia appunto di essere gabbati due volte: non prendere lo stipendio e non prendere l'indennità di disoccupazione per il periodo appunto in cui è state disoccupate. C'è stata una un'emissione speciale di stipendi il 15 marzo, che qualche situazione l'avrà sanata, però evidentemente non è tutto sanato, e quindi questo mi sembra un problema grosso. E quindi, con tutta la nostra solidarietà verso chi sta lavorando e non riceve lo stipendio, anzi, se la vostra prossima volta, perché adesso la trasmissione è finita, volete telefonare e raccontarcelo, lo 06 49 17 50, ma insomma a voce ce l'hanno già raccontato colleghi e colleghe nelle nostre scuole, insomma poi non è difficile immaginare cosa significa non percepire lo stipendio a fine mese, perché poi ovviamente la vita costa, e costa anche quando il MEF fa i casini. Detto questo, l'ora di buco è finita, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 16, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Cara Maestra.